Ogni persona religiosa rivolge delle preghiere al suo Dio. La preghiera, quindi, costituisce il normale rapporto con la divinità. Sono varie le ragioni per cui noi ci rivolgiamo alla divinità: per ringraziare, per lodare, per intercedere, ma soprattutto per chiedere e supplicare. Poiché viviamo circondati di travagli e necessità, la preghiera di richiesta è la più adoperata. In questa esistenza, terrena piena di travagli e di pericoli, noi abbiamo bisogno di aiuto, di essere esauditi, di essere soccorsi. Eppure le volte in cui, avendo espresso una preghiera specifica, realizziamo di essere esauditi da Dio, forse sono molto poche. Alcuni sostengono che chi si rivolge a Dio viene comunque esaudito, a volte con un sì, altre con un no o con un aspetta. Ma questo non è vero. Il no corrisponde a un mancato esaudimento delle proprie richieste. Quando Esaù chiese con lacrime di ereditare la benedizione, non fu esaudito. Ebrei mezzogiorno e 17. Perfino Gesù non fu esaudito quando chiese di evitare di bere il calice. Perché dunque a volte Dio non risponde alle nostre preghiere? Perché non sempre viene il nostro soccorso? Questa non è una domanda posta solo per curiosità. Spesso si trasforma in un tarlo che rode lentamente la nostra pace, un tarlo che produce il terribile dubbio di non essere esauditi, perché non viviamo in comunione con Dio. Forse questa, in definitiva, può essere l'ultima risposta al nostro interrogativo. Ma in quale specifica cosa si sta sbagliando? Quando non si è esauditi, non è sufficiente dare una risposta vaga, perché non aiuterebbe a risolvere i nostri problemi qualora ce ne fossero. Perciò, qui di seguito prenderemo in esame 10 ragioni per le quali non si è esauditi. Ragioni che non devono però annullare il principio che alcuni motivi per i quali Dio non ci esaudisce risiedono nel segreto della sua volontà. Davide, il re di Israele, per esempio, chiese di costruire il tempio all'Eterno, ma ciò non gli fu concesso. La ragione del mancato esaudimento però non consisteva in un peccato specifico commesso da Davide. Con questa premessa, prenderemo in esame il fatto che a volte non si è esauditi. 1. Perché nonc è un atteggiamento di ascolto. 2. Perché si prega con intenti malvagi. 3. Perché non si rispetta il coniuge. 4. Perché manca la giusta fede. 5. Perché non si aiuta il bisognoso. 6. Perché non si accetta la riprensione di Dio. 7. Perché non si perdona al prossimo. 8. Perché si prega per soddisfare le proprie concupiscenze. 9. Perché non si è giusti. 10. Perché non si è riconoscenti. 1. Dio non risponde alle nostre preghiere quando non abbiamo Antico Testamento, Teggiame Nuovo, Testamento di ascolto. Tra le varie ragioni per le quali a volte non siamo esauditi nelle nostre preghiere, la mancanza di ascolto della voce di Dio costituisce certamente non solo il primo motivo, ma il principio della nostra disubbidienza. La scrittura in merito non lascia dubbi. Se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio. Proverbi 28:9. Forse noi abbiamo del Dio Trino un'opinione un poco idealista e romantica. Ma se osserviamo come egli si è rivelato, notiamo che egli possiede le stesse caratteristiche dell'essere umano. Non può essere diversamente. Perché Cristo Gesù ha creato l'uomo a sua immagine, lo ha creato a immagine della Trinità. E perciò l'uomo, per quanto corrotto, possiede le caratteristiche di Dio. Chi di noi può essere favorevole a qualcuno quando questi vuole agire di sua testa? Se il codice stradale vieta di percorrere le strade ad una certa velocità e qualcuno non osserva il divieto, possiamo noi essere parziali ed evitargli la multa? Se non viene osservata la legge di amare il prossimo come noi stessi, la quale è stata scritta da Dio nei nostri cuori, possiamo noi impedire che il trasgressore non subisca i reati compiuti? Com'è possibile esaudire qualcuno dopo che questi vuole a tutti i costi fare di sua testa? L'unica risposta è che se vogliamo essere esauditi dobbiamo mettere tutto il nostro impegno Nel compiere il bene, dobbiamo avere come obiettivo primario nella nostra vita la volontà di compiere il volere di Dio e poi attendiamo l'intervento di grazia da parte sua. Se si vuole essere ascoltati occorre essere coerenti alla legge santa di Dio. La maggioranza delle persone conosce la triste e travagliata storia del popolo di Israele, ma non tutti hanno compreso che la loro infelice epopea, anche se cosparsa da eventi gloriosi, è dovuta al fatto che il popolo ostinatamente non ha voluto ascoltare la voce dell'Eterno, il suo Dio. Ecco una delle tante rimostranze dell'Eterno in merito. Non opprimete la vedova e l'orfano, lo straniero e il povero, e nessuno macchini nel suo cuore del male contro il proprio fratello. Ma essi rifiutarono di ascoltare, voltarono ostinatamente le spalle e si turarono gli orecchi per non udire. Presero il loro cuore come il diamante, per non ascoltare la legge e le parole che l'Eterno degli eserciti mandava loro per mezzo del suo spirito, attraverso i profeti del passato. Così ci fu grande indignazione da parte dell'Eterno degli eserciti. E avvenne che come egli chiamava, ed essi non davano ascolto, così essi hanno gridato, e io non ho dato ascolto, dice l'Eterno degli eserciti. Zaccaria 7, 11-13. Possiamo noi condannare l'atteggiamento di Dio? 2. Dio non risponde alle nostre preghiere quando abbiamo dei motivi malvagi. Forse noi abbiamo fatto della nostra religione un velo per nascondere i nostri malvagi obiettivi? Tanto è vero che Gesù Cristo, il Santo di Israele, Isaia 54, 5, 69, è stato condannato sulla base della legge giusta e santa di Dio. Eppure, l'Eterno Dio per millenni non diede nessuna legge cerimoniale. Non chiese a nessuno di venire alla sua presenza osservando certe regole, testimoniando in questo modo che non erano tanto le regole cerimoniali ad essere importanti perché lui non ne aveva bisogno. Ma egli ha sempre desiderato un cuore retto e puro. Salmo 51, 6. Proprio perché Dio ama chi ha un cuore puro, egli non tollera e non esaudisce una preghiera con una motivazione malvagia. Il salmista sapeva questo e in una delle sue preghiere disse: «Se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non m'avrebbe ascoltato». Salmo 66, 18. Noi non siamo in grado di conoscere il cuore delle persone, cioè le loro motivazioni, e per questo ci è detto di non giudicare nulla prima del tempo. 1 Corinzi 4, 5. Ma Dio conosce l'uomo prima ancora che questi formuli una parola. Salmo 139, 4. Perciò egli sa quando non è il momento di esaudire una richiesta. La condizione per essere esauditi è avere purezza d'intenti, è desiderare di onorare Dio sopra ad ogni cosa. Dato che il nostro cuore è insanabilmente maligno, spesso non siamo in grado di comprendere quando chiediamo a Dio con scopi malvagi. L'apostolo Pietro desiderava che Gesù non morisse in croce. Matteo 16, 22 il suo affetto non era ancora stato purificato, perciò il suo desiderio non poteva essere esaudito. È molto difficile essere obiettivi e avere intenti puri quando ci sono di mezzo i sentimenti. I sentimenti sono un dono di Dio, ma ciò che guasta ogni cosa nel campo affettivo sono i sentimentalismi che ci impediscono di scorgere la realtà delle situazioni, delle persone e della chiamata che abbiamo. Il sentimentalismo ci porta ad avere delle aspettative che vanno oltre le concretezze della situazione in cui siamo e spesso diventa una buona scusa per non fare ciò che dovremmo. Si può chiedere di servire Dio a tempo pieno per non incontrare le normali difficoltà offerte da un ambiente di lavoro. Si può pregare per la guarigione, per non soffrire dolori fisici. Si può chiedere la pace per non dover lottare per la fede. Simili richieste non salgono alla presenza di Dio. 3. Dio non risponde alle nostre preghiere quando non rispettiamo il nostro coniuge. Il matrimonio è un rapporto serio, molto serio, e, molto probabilmente, la relazione più seria che esista in questa vita dopo quella che si ha con il Creatore. Noi dobbiamo dare ad esso il valore che Dio gli ha dato Tanto è vero che Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri, Ebrei 13:4. Proprio per questo, quando si parla di matrimonio, si pensa subito alla necessità di essere fedeli e di non prestare il proprio corpo a qualcuno che non sia il partner che abbiamo scelto. Si pensa che un uomo e una donna maturi non esprimono allo stesso modo lo stesso tipo di virilità con altri, ma, con una armonica interdipendenza, sono chiamati ad esprimere la convivenza e la sessualità solo nell'ambito del patto del matrimonio. Considerazione più che giusta. Ma vi è un'altra fedeltà alla quale devono sottostare gli sposi, un tipo di fedeltà molto più rara della fedeltà sessuale, e questo perché mentre l'infedeltà sessuale nella nostra cultura rimane tuttora un pugno in un occhio, l'infedeltà della quale intendo riferire è tanto comune che nessuno ci fa caso. Si tratta della fedeltà di rispettare il proprio coniuge, come per ogni altro peccato o trasgressione, la mancanza di fedeltà nel rispettare il coniuge porta delle conseguenze negative, e cioè quella di non essere esauditi nelle preghiere. Anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. 1 Pietro 3, 7. Ciò che ha scritto l'apostolo Pietro, che tra l'altro era sposato, è rivolto ai mariti. Essi devono onorare la propria moglie. La ragione è certamente quella di onorare una persona che è degna di essere onorata, ma l'apostolo presenta un'altra ragione che deve indurre il marito a rispettare la moglie, e cioè quella di poter essere esauditi nelle preghiere. Purtroppo non sono pochi i mariti che desiderano servire o servono il Signore, i quali sono zelanti nel regno di Dio, eppure non rispettano la moglie. Dicono di amare il mondo intero, ma non sono in grado di amare il prossimo che hanno in casa. Onorare la moglie significa riconoscerne le virtù. Significa non arrabbiarsi, ma bensì contenersi pur quando il marito avrebbe motivo di arrabbiarsi. Un marito insensibile verso la propria moglie e una moglie che non rispetta il proprio marito, Efesini 5:33, non possono aspettarsi l'esaudimento alle loro preghiere. 4. Dio non risponde alle nostre preghiere quando manchiamo di fede. Pochi hanno compreso il valore della fede. La fede non è una virtù che Dio ha distribuito a pochi, come l'essere poeti o inventori, ma è una capacità che fa parte della nostra natura. Se non avessimo fede, non potremmo bere o mangiare nulla senza averlo prima analizzato, come non potremmo prendere in parola nessuno senza aver prima verificato ogni sua affermazione. Proprio perché la fede fa parte del nostro vivere, Dio chiede che la virtù della fede sia esercitata nei suoi confronti. Una volta stabilito che la Bibbia è la parola di Dio vera ed efficace, il credente non deve dubitare delle rivelazioni che derivano da essa, perché ne conseguirebbe la mancanza di esaudimento da parte di Dio. Giacomo, il fratellastro di Gesù, lo dice espressamente. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Giacomo 1, 6 a 8. Dunque, per essere esauditi, dobbiamo credere che Dio mantenga quanto ha promesso. Questo da parte di chi ha posto fede in Gesù comporta un impegno serio al fine di ricercare le promesse rivolte a Lui. Non ogni promessa contenuta nella Scrittura, infatti, è valevole per tutti. Però Giacomo non fa distinzione riguardo alla promessa della saggezza, perché Dio la dona a tutti abbondantemente. Certo, se dopo aver pregato per ricevere saggezza, pensiamo di diventare come Salomone, non vedremo mai la risposta di Dio, ma se crediamo che la saggezza che dimostriamo venga da Dio, allora, per fede, vediamo la risposta. E il dubbio a impedire l'esaudimento delle preghiere. 5. Dio non risponde alle nostre preghiere quando non aiutiamo il bisognoso. La nostra esistenza è principalmente una vita comunitaria. Alla nascita entriamo a far parte di una famiglia, impariamo l'istruzione assieme ad altri, lavoriamo collaborando con il prossimo. Non è possibile ignorare chi ci vive accanto. Proprio per questo contatto ravvicinato con il prossimo, Dio ci chiede di soccorrere chi ha bisogno. Chi chiude l'orecchio al grido del povero griderà anche egli, ma non avrà risposta. Proverbi 21:13. Per quanto certe correnti politiche si vantino di essere a favore dei poveri come se fossero le sole a farlo, in una società dove il cristianesimo fosse osservato nella sua interezza, nessuno morirebbe di fame. Le regole sociali che l'Eterno Dio aveva istituito erano a favore proprio dei più deboli e dei poveri. Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterai fino ai margini del tuo campo, e non raccoglierai le spighe lasciate indietro del tuo raccolto, e nella tua vigna non vi ripasserai, né raccoglierai i grappoli rimasti indietro della tua vigna. Li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Levitico 19:9-10. Proprio perché l'Eterno si è sempre preoccupato dei poveri, egli comanda ai suoi di aiutare chi si trova nella necessità. Diversamente Dio lo tratta come ha trattato il povero, e cioè non gli risponde. A chi invece si cura e si interessa del bisognoso sono riservate tutta una serie di promesse che vale la pena leggere. Beato chi si prende cura del povero. L'Eterno lo libererà nel giorno dell'avversità. L'Eterno lo custodirà e lo manterrà in vita. Egli sarà reso felice sulla terra. E tu non lo darai in balia dei suoi nemici. L'Eterno lo sosterrà sul letto d'infermità, nella sua malattia. Tu, o Eterno, trasformerai completamente il suo letto. Salmo 41:1-3. Notiamo le risposte che l'Eterno concede a chi aiuta il povero. Lo libera nelle difficoltà, lo protegge dagli incidenti mortali. È felice. Lo libera da chi gli vuole fare del male. Nella malattia è sostenuto e anche guarito. Se ciò che l'Eterno Dio ha promesso è vero, cosa dire se molti sono ammalati del continuo e si trovano in gravi difficoltà di ogni genere? Non sta a noi giudicare, ma non possiamo chiudere gli occhi davanti all'evidenza di ciò che ha promesso l'Eterno, e cioè chi non aiuta il prossimo griderà a Dio ma non verrà esaudito, mentre chi ha pietà del povero presta all'Eterno che gli contraccambierà ciò che ha dato. Proverbi 19:17. 6. Dio non risponde alle nostre preghiere quando non accettiamo la riprensione. Le nostre idee romantiche su Dio non ci aiutano a vivere bene. Come un genitore, Dio riprende in mille modi e in mille maniere colui che egli ama. Per un credente dimenticare questo aspetto dell'amore di Dio può essere fatale. Perciò è più che mai opportuno leggere ciò che dice l'Eterno. Nel libro dei Proverbi, la sapienza grida per le vie, fa sentire la sua voce per le piazze. Essa chiama nei luoghi affollati e pronuncia i suoi discorsi all ingresso delle porte in città. Fino a quando, o semplici, amerete la semplicioneria e gli schernitori prenderanno gusto a schernire, e gli stolti avranno in odio la conoscenza? Volgetevi alla mia riprensione. Ecco, io verserò il mio spirito su di voi, e vi farò conoscere le mie parole, poiché ho chiamato, e voi avete rifiutato, ho steso la mia mano. E nessuno vi ha fatto attenzione, anzi avete respinto ogni mio consiglio, e non avete accettato la mia correzione. Anche io riderò della vostra sventura, mi farò beffe quando verrà ciò che temete. Quando ciò che temete verrà come una tempesta, e la vostra sventura arriverà come un uragano. Quando verranno su di voi l'avversità e l'angoscia, allora essi grideranno a me, ma io non risponderò. Vi cercheranno con premura, ma non mi troveranno, punto, poiché hanno odiato la conoscenza, e non hanno scelto il timore dell'Eterno, non hanno voluto accettare il mio consiglio, e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Si ciberanno del frutto della loro condotta e si sazieranno dei loro propri consigli, punto. Poiché lo sviamento dei semplici li uccide, e la falsa tranquillità degli stolti li fa perire. Ma chi ne ascolta abiterà al sicuro, sarà veramente tranquillo, senza paura di alcun male. Proverbi 1, 23. Che l'Eterno si faccia beffe di chi non accetta le riprensioni sono parole forti. Ma purtroppo questa è la realtà riservata a chi non vuole cambiare modo di vivere, a chi non vuole cambiare modo di vivere, e perciò le sue preghiere non sono esaudite. E poiché tutti giungiamo prima o poi a trovarci nel momento della sventura o in gravi difficoltà, l'essere esauditi non è più una cosa superflua, ma diventa una necessità della quale non possiamo fare a meno. Perciò è saggio umiliarci davanti a Dio e accettare le sue regole. E se frenati dal nostro orgoglio non siamo disposti a farlo, sia almeno la necessità di essere esauditi a portarci all'accettazione dei suoi consigli. 7. Dio non risponde alle nostre preghiere quando non perdoniamo il prossimo. L'argomento e l'atto del perdono sono uno dei temi più importanti della vita di una persona. L'atto del perdono ha avuto il suo emblema 2000 anni fa, quando Gesù, il Figlio di Dio, morendo in croce ingiustamente, ha elevato la sua voce pregando il Padre perché perdonasse coloro che lo avevano crocifisso senza rendersi conto di ciò che stavano facendo. Pochi hanno capito che il sapore della vita dipende dal perdono o meno che accordiamo al nostro prossimo. E non solo. Quando Gesù insegnò la preghiera modello del Padre nostro, mise in evidenza che le nostre richieste a Dio sono condizionate dal modo in cui ci relazioniamo con i nostri debitori. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario. E perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché, se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Matteo 6, 9-15. Proprio per il principio divino di essere trattati da Dio come noi trattiamo il prossimo che ci è debitore, molte volte le nostre preghiere non vengono esaudite. Questo aspetto del carattere di Dio ribalta completamente l'idea che la divinità dei cristiani perdoni sempre e comunque. Questa è una piacevole e allettante menzogna alla quale piacevolmente ci aggrappiamo. Ma purtroppo molte invocazioni e implorazioni non arrivano al trono della grazia di Dio proprio perché non siamo misericordiosi nei confronti di chi ci ha fatto dei torti. Conosco una persona che ogni tanto mi riferisce delle sue vendette, ma io non vorrei vivere un solo giorno della mia vita come la sta vivendo lei. Eppure, anche se sembra assurdo come noi ci abituiamo alle cose piacevoli, ci abituiamo anche al tipo di sofferenza e contrarietà che vogliamo scegliere. Vi sono persone che sono talmente immerse nei dispiaceri che si procurano con il loro scorretto modo di condursi, al punto da non rendersi conto di invocare Dio inutilmente. Che Dio ci apra gli occhi per comprendere la nostra ignoranza. 8. Dio non risponde alle nostre preghiere quando vogliamo soddisfare le nostre concupiscenze. Non tutti hanno compreso in che cosa consiste la concupiscenza, o quando si è concupiscenti. La concupiscenza non è desiderare qualcosa o avere delle ambizioni, perché noi necessitiamo di tutto e abbiamo bisogno di obiettivi per vivere. La concupiscenza è un desiderio illegittimo che si trasforma nel possedere o nell'ambire qualcosa di illecito. Desiderare di sposarsi è lecito, ma possedere la donna altrui no. Desiderare di vivere al riparo in un appartamento è lecito, ma volere una villa, se non ci è dato da Dio, diventa illecito. Proprio perché a volte noi chiediamo per soddisfare le nostre concupiscenze, Dio non ci esaudisce. Giacomo lo dice molto espressamente. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Giacomo 4. 3. È difficile comprendere quando si chiede per egoismo, soprattutto quando si tratta del regno di Dio. Qualcuno può desiderare dei doni per mettersi in mostra. Un altro può aiutare il prossimo per soddisfare un proprio bisogno di affetto o di riconoscenza. Un altro ancora studia la Bibbia per voler umiliare chi ne sa di meno. Conosco alcuni credenti che pregano con ardore per i loro figli, ma lo fanno per non aver l'umiliazione di avere un non credente in famiglia piuttosto che pregare, per il dolore della loro perdizione. È molto difficile sapere quando chiediamo per il nostro vantaggio, e questo dovrebbe anche portarci ad essere arrendevoli nelle preghiere. Chiediamo a Dio, ma se la risposta non dovesse arrivare, accettiamo che ci sia la possibilità da parte nostra di aver espresso una richiesta egoistica. Non ce ne rendiamo conto, ma sono molte le preghiere fatte per concupiscenza, e questo spiega la ragione delle poche risposte alle nostre preghiere. 9. Dio non risponde alle nostre preghiere quando non siamo giusti. Conosco un parente che ogni giorno malediva sua moglie, la ingiuriava davanti a tutti, ed esprimeva chiaramente il desiderio della sua morte. Al giorno del funerale di sua moglie l'ho visto piangere. Ed ora, di tanto in tanto, va al cimitero a trovarla. Non ho parole per esprimere il mio disappunto. Disappunto che nasce non tanto dal fatto che lui odiasse sua moglie, ma che avesse pianto al funerale, e che ora la vada a trovare sotto 2 metri di terra. Questi atteggiamenti devono essere veramente ripugnanti davanti a Dio, e così è nell'ambito del cristianesimo. Vi sono persone che sono palesemente contrarie alla Chiesa alla quale appartengono, covano nel loro cuore rancori e amarezze che a volte confessano dopo 20 o 30 anni, persone che sono contrarie ad ogni buona iniziativa, ma quando pregano hanno labbra ardenti e parlano di Dio e di Cristo come se avessero l'autorità degli apostoli. La condotta di queste persone è talmente comune che una Chiesa ormai non nota più tale discrepanza. Cosa pensare? Non è il momento di sferrare dei giudizi, ma una cosa è certa. Le preghiere di chi ha una condotta contraddittoria non sono esaudite. Siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amor fraterno, misericordiosi e benevoli, non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma, al contrario, benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Infatti chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno, si ritragga dal male e faccia il bene, cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. 1 Pietro 3, 8-12. La chiamata del cristiano è a essere compassionevole e misericordioso, a non essere vendicativo, ma piuttosto a rispondere al male con il bene. Eppure la realtà nelle vite di certi credenti è diversa. Molto probabilmente taluni credenti in Cristo hanno dimenticato che essere compassionevoli e misericordiosi non sono solo verbi astratti, ma azioni da mettere in pratica. Non dobbiamo mai dimenticare che la compassione, la misericordia, l'amore sono tali solo quando la persona alla quale sono dirette non se lo merita. Amare o comportarsi con compassione verso chi ne è degno sono istinti e reazioni umane, ma amare chi non è amabile è il frutto della persona dello Spirito Santo. Solo così possiamo ottenere le risposte alle nostre preghiere. 10. Dio non risponde alle nostre preghiere quando non siamo, riconosce Nuovo Testamentoi. Che noi siamo carenti di virtù lo sappiamo, ma la virtù della riconoscenza sembra quasi sparita nella convivenza umana e fraterna. Eppure la riconoscenza è il cuscino che attutisce i rapporti sociali e trasforma il deserto del nostro cammino in un prato di fiori odorosi. La riconoscenza non toglie le problematiche, ma aiuta ad ingerire certe medicine, amare quali torti, la morte, la sofferenza. Dio ci dice tramite Elihu, l'amico di Giobbe, contempla il cielo e osserva, guarda le nuvole, che sono più alte di te. Se pecchi, che effetto ha su di lui? Se moltiplichi i tuoi misfatti, che danno gli arrechi? Se sei giusto, che cosa gli dai o che cosa riceve dalla tua mano? La tua malvagità può solamente nuocere a un uomo come te e la tua giustizia può solamente giovare a un figlio d'uomo. Si grida per il gran numero delle oppressioni, si grida in cerca di aiuto a motivo della forza dei potenti. Ma nessuno dice, Dov è Dio, il mio creatore, che nella notte concede canti di gioia, che a noi insegna più cose che alle bestie dei campi e ci fa più saggi degli uccelli del cielo. Così si grida. Ma egli non risponde a motivo della superbia dei malvagi. Noi siamo pronti a gridare per le ingiustizie, siamo pronti a lamentarci perché le cose non vanno bene politicamente e spiritualmente. Ma Dio si lamenta, se così possiamo dire, perché nessuno ha un cuore riconoscente, perché non ringrazia Dio delle gioie e delle consolazioni che offre la vita. Chi non è riconoscente vero il suo Creatore, non dovrebbe neppure avere il diritto di lamentarsi quando le cose vanno male. Ha un marito il diritto di lamentarsi di sua moglie che ha bruciato la torta quando non l'ha mai ringraziata per tutto quello che fa per lui? Ha un figlio il diritto di inveire vero il genitore che lo picchia quando non l'ha mai ringraziato per tutte le cure che riceve? Chi è riconoscente può anche esprimere il suo disappunto, ma nessuno, e proprio nessuno, può esprimere la propria opinione solo per dichiarare ciò che non va. In nessun settore della vita, proprio perché vi è mancanza di riconoscenza, Dio non risponde alle preghiere. Le preghiere possono essere fervide, possono contenere un grido di angoscia, ma nonostante tutto questo non arrivano al trono della grazia di Dio. Dio rimane inflessibile perché se rispondesse approverebbe il male compiuto. La mancanza di risposta di Dio alle nostre preghiere rimangono comunque un atto di misericordia. Dio è amore e non può compiere un gesto che non contenga questo aspetto. Al termine di queste riflessioni rimane il pericolo sempre presente ogni volta che si ascolta la parola di Dio. Pensare che ciò non ci riguardi. La meditazione della parola di Dio non è solo uno studio che arricchisce la nostra conoscenza, ma deve essere finalizzata a regolare la nostra condotta, cioè a cambiarla in meglio. Siamo noi esauditi nelle nostre preghiere. Abbiamo un'esistenza cosparsa del continuo di mille difficoltà. Non credo che dobbiamo creare dei sensi di colpa a tutti i costi, perché questo non è giusto e buono, ma è saggio verificare con serenità e senza nessuna fobia se siamo attenti alla voce di Dio, se abbiamo dei motivi malvagi, se rispettiamo il nostro coniuge, se manchiamo di fede, se non si aiuta il bisognoso, se non si accetta la sua riprensione, se non perdoniamo il prossimo, se vogliamo soddisfare le nostre concupiscenze, se non si è giusti e se non siamo riconoscenti. Se dopo un breve e sereno esame non troviamo questi atteggiamenti in modo costante, allora la preghiera, la nostra comunione con Dio tramite Cristo diventa preziosa. Per quanto mi riguarda, non sono sempre convinto che il nostro Dio mi esaudisca, come del resto ha fatto anche con l'Apostolo Paolo, ma vi è una promessa che mi incoraggia enormemente a rimanere in ginocchio alla sua presenza. O Eterno, al mattino tu dai ascolto alla mia voce, al mattino eleverò la mia preghiera a te e aspetterò, perché tu non sei un Dio che prende piacere nell'impietà, con te non può dimorare il male. Salmo 5:3. Anche il salmista sapeva che non sempre Dio esaudiva le sue preghiere, ma comunque lui rimaneva in attesa che Dio intervenisse, perché il desiderio di Dio è quello che i suoi figli non commettano male azioni. Poiché lo scettro dell'impietà non riposerà per sempre sull'eredità dei giusti, perché i giusti non stendano le loro mani a compiere il male. Salmo 125:3. Stupendo sentimento, stupenda visione. Per questo possiamo dire con l'Apostolo Giovanni: carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono gradite. 1 Giovanni 3:21-22. Ecco l'ottimismo di un cristiano: prega con fiducia di ottenere, perché fa le cose che piacciono a Dio. E far le cose che sono gradite a Dio si arriva direttamente al suo cuore. E non vi è nulla di più bello che far parte del cuore di Dio, anche delle preghiere esaudite. Settembre 2005, Elrop.